si capisce che sei tu, Claudio. E ciao Fabrizio. Stiamo parlando lo smitter del 430 al Galaxy, perché poi mi si è inchiolato, ma se poi adesso è ripartito. Lo so. Ciao Fabri, buonasera. Ciao, buonasera, dal click del microfono. E vabbè, già c'era anche Giulio, fa lo stesso stacco, Ruby. No, io adesso mi ho detto, come non funziona il trasmitter? Ma allora ho invertito, ho commutato dal 430 al lato corpo e si è sbloccato. E tutto bene? Sì, tutto bene, sono entrato in una stazione e stavo facendo una cosa per andare via ed ho sentito lo stacco. Io no, questo è il Galaxy. Non funziona bene ancora. Va bene, dai, allora ti lascio fare, tanto anch'io ero di passaggio, giusto così, ogni tanto accendo a ver se funziona tutto, però come vedi, ogni tanto qualcosa si inchioda. No, 431 e 432 sono sempre spettacolari, funzionanti al 100%, non problema. Anche questo c'è benissimo di radio, Sì, qua c'è Fabri, un MB+5, basta, un MB+5 normale, nuovo, avevo comprato la Fusaro, non avevo modificato niente, perché il pane più 3 mi stava difettando, l'ho preso e l'ho messo sotto l'armadio. C'ha quel problema delle lamelle, anche Gianni ogni tanto glielo fa, è un omaggio più grande che ha fatto il microfono. C'avevo questo nuovo, l'ho piazzato, ho visto che funziona bene, anche Roberto mi ha detto che è un'ottima modulazione, usiamo questo, allora già va bene, tanto per quello che lo uso. Ehi, ottimo, mi sembrava un'altra radio, certo, si riesce benissimo. No, beh, c'è il Bip, questo è il Galaxy, il Saturn, che avevo preso da Danilo, me l'aveva dato Danilo, già lo conosci, ce l'avevo già quando era carbonasse, però lo usavo poco, la verità. Poi nell'ultimo periodo, che è il 430, sai che cosa ha avuto? Allora stavo sempre usando questo, gli ho messo questo microfono, mi hanno detto che andava bene. Va bene, dai, ti faccio fare quello che stai facendo, io me ne passo dall'altra parte, praticamente in cucina. Dai, ok, grazie ai controlli Fabri, già ci riascoltiamo, ciao. Ciao Claudio. Ah, Marco, che fine ha fatto? Da quando sono qua non l'ho mai sentito in radio, mai. E altrimenti non penso che stia facendo volta a radio, perlomeno qua, magari su da qualche altra parte. Vabbè, da altre parti no, io sono organizzato, ma a dire anche sui ponti, lì già ce li ho le radio. A te ti ho sentito qualche volta, anche tu non è che entri molto, come Walter, Domenico, Paolo qualche volta, ma lui mai, da quando sono qua non l'ho mai sentito né in 27 e neanche in VHF. Vabbè, sarà impegnato, dai, ognuno ha le sue cose da fare. Ciao Fabio, un abbraccio, a presto, ciao ciao. Ciao, buona serata. Comunque se lo senti salutalo, ok? Non mancherò. Grazie mille.